Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9 e 8 minuti, in questo istante gentili ascoltatori ben ritrovati, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. Secondo alcuni dati della scorsa settimana dell'Osservatorio Europeo sulle droghe, nell'ultimo anno 23 milioni di europei avrebbero provato marijuana o hashish. In Italia lo hanno fatto l'11,2% di persone tra i 15 e i 64 anni. La cocaina viene usata dal 3,2% dei giovani tra i 15 e i 34 anni. Insomma, parliamo oggi di droga, il più grande business mondiale. Lo facciamo con un italiano, uno dei rari italiani ai massimi vertici mondiali. È vice segretario dell'ONU, delle Nazioni Unite. Da Vienna guida per l'ONU l'ufficio contro la droga e il crimine. Si tratta di Antonio Maria Costa, che ci parla da Vienna e che saluto. Buongiorno e benvenuto, Costa. Buongiorno a tutti voi. Allora, ci sono tante cose che vogliamo chiederle, a partire ovviamente dall'Afghanistan, perché è stato presentato il rapporto 2008 dal suo ufficio a Roma proprio venerdì scorso alle 9:11. Dunque parliamo di lotta e contrasto al mercato della droga, il più grande business mondiale, con Antonio Maria Costa, che dirige l'ufficio dell'ONU per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine. 800 24 00 24 per le vostre domande. Dottor Costa, innanzitutto io parlo di business mondiale, c'è addirittura una cifra che possiamo dare, una stima di quanto può essere quantificato il business del mercato della droga nel mondo? Sì, noi lo abbiamo valutato qualche anno addietro, sulla base delle statistiche del 2005. All'epoca, e tutto questo è documentato nel nostro rapporto annuale sulla droga, appunto pubblicato quell'anno, abbiamo stimato il valore complessivo di tutto il mercato della droga, e cioè delle quattro droghe più importanti, gli oppiacei, la cocaina, le droghe sintetiche e il cannabis, a 352 miliardi di dollari. Tutto incluso, il che vuol dire partendo dal reddito dei contadini che lo coltivano fino al reddito dei grossisti e il valore al dettaglio sulle strade dei principali mercati. 352 miliardi di dollari, che sarebbe equivalente, fosse un'economia nazionale, alla 19ª economia al mondo, subito dopo la Svezia. 352 miliardi di dollari, teniamo a mente questa cifra. Senta, lei ha presentato il rapporto 2008 per l'Afghanistan, buone notizie, nel senso che dopo che nel 2007 si era arrivati a livelli di coltivazione e produzione spaventosi, in Afghanistan, che ricordiamo è il paese monopolista, praticamente produce tutto l'oppio del mondo, la produzione, la coltivazione sono in calo. C'è per questo da essere ottimisti? Fino a un certo punto possiamo essere ottimisti. Indubbiamente, come lei ha citato, i dati per il 2008 sono stati positivi. Una forte contrazione delle coltivazioni, circa il 20%, una buona riduzione della produzione, perciò proprio delle tonnellate di prodotto. La differenza è dovuta a un aumento della produttività dovuto a fattori climatici. Una riduzione dell'ammontare di terra usato appunto per le coltivazioni dell'oppio, che non è circa il 2% del territorio afghano, un ammontare molto basso, e una contrazione del numero di persone, di circa 1 milione di persone in meno hanno coltivato la droga. Naturalmente il fatturato, e cioè il volume d'affare dell'economia della droga legato alla produzione dell'oppio, anch'esso si è ridotto di circa 750 milioni di dollari. Ovviamente tutto questo va a finanziare, diciamo, il terrorismo internazionale, ecco, anche i talebani, per esempio. No, non tutto, ovviamente non tutto. Noi abbiamo valutato quale potrebbe essere il contributo alla guerra degli insorti dei talebani ricavato appunto dall'economia della droga. Il ragionamento che noi facciamo, che mi pare incontrastato, è che tradizionalmente in Afghanistan i contadini, ma anche coloro che sviluppano attività economiche lecite o illecite, pagano una tassa ai signori del luogo. Se chi controlla il territorio è l'autorità provinciale o statale, la pagano alle casse dello Stato. Se chi controlla il territorio, per esempio nel meridione del paese, nelle cinque province del sud, sono gli insorti, allora questa sorta di tassa che è circa il 10%, che si chiama OSH in lingua locale, questa tassa viene incassata, diciamo è una premenda, è un pizzo se vogliamo, viene incassata dall'autorità che controlla il territorio. Se sono gli insorti, sono loro a ricavarne un beneficio. 10% dell'economia della droga, stimata a 3 miliardi e qualche cosa, sono circa 300-400 milioni di dollari che vengono ricavati dagli insorti per finanziare le loro attività. Per l'Afghanistan. Senta, solo in Afghanistan. In Afghanistan, certo. Costa, le chiedo, visto che la produzione e la coltivazione sono limitate in alcune province, circa 5 province, perché non bombardarle? Proprio uso questo tema, non perché sembra una terminologia molto aggressiva, ma perché è una delle teorie, cioè quello di bombardare le coltivazioni, quello di aggredirle proprio fisicamente. Ma io vorrei separare due aspetti fondamentali, l'aspetto delle coltivazioni, cioè l'attività dei contadini. Io ritengo che i contadini siano una variabile politica, una variabile sociale, sono ovviamente persone molto povere, io mi sono sempre dimostrato contrario a distruggere i loro raccolti, il contadino va convinto a passare ad attività lecite e dopo, se volete, proprio siccome rappresentate un periodico di economia e di finanza, possiamo fare un buon discorso economico in materia. Invece coloro che gestiscono i mercati all'ingrosso, che sono all'aperto, e noi abbiamo la mappa, le rappresentiamo, sono parecchie centinaia di mercati, coloro che gestiscono i laboratori che trasformano l'oppio in morfina o ancora peggio in eroina, e conosciamo le destinazioni, e questi sono i signori della guerra locali, coloro che gestiscono i traffici, le esportazioni, 5, 10, 15 magari autocarri, tutti presidiati dai talebani e perciò con un'economia di guerra che difende questi trasporti. Io direi che questi obiettivi strategici devono essere distrutti, lo stiamo dicendo ormai da anni, e sono contento che il Consiglio ministeriale NATO, ministri della difesa, riunito a Budapest 15-18 giorni addietro, abbia appunto deciso di perseguire questa strategia, e cioè distruggere i centri nevralgici della droga, lasciando i contadini a parte. Quindi si potrà fare, insomma, per la questo... decisione dei ministri della difesa è di intraprendere questo tipo di attività, però lasciando, a NATO naturalmente è un'alleanza di paesi, lasciando ciascun paese membro libero di farlo se vuol farlo o no. Certo. Gli Stati Uniti e alcuni altri paesi hanno deciso di intraprendere questo tipo di attività. L'Italia? L'Italia ha deciso di non farlo per il momento. Non farlo per il momento. Senta, Costa, lei ovviamente si occupa di contrasto alla droga a livello mondiale. Le chiedo, venendo un attimo all'Italia, mi pare che dai dati si evinca che il consumo di cocaina, per esempio, è abbastanza in calo. In Italia invece no. Ci sono tantissimi articoli di come siamo davvero invasi, io uso questa parola, comunque c'è davvero un consumo di cocaina molto alto. Perché, se è vero, l'Italia è in controtendenza? Un paio di ragioni, ma mi permetta di valutare la situazione a livello globale. A livello globale, ormai da parecchi anni, circa dal 2003, noi abbiamo verificato, e questo è documentato con dati alla mano nei nostri rapporti annuali, che il mondo della droga, malgrado questo volume enorme al quale ho fatto riferimento prima, è fondamentalmente stabile. È stabile dal lato dell'offerta, produzione, coltivazione, ed è stabile dal lato della domanda, consumi e tossicodipendenza. Io dico globalmente stabile. In questa visione generale alcuni paesi stanno migliorando la propria situazione, notamente gli Stati Uniti, dove c'è stato un forte calo in particolare del consumo di cocaina, altri paesi, generalmente in Europa, ma in particolare l'Italia, che non è il caso peggiore, la Spagna e il Regno Unito, che sono i due casi peggiori dei nostri, per quanto riguarda la cocaina abbiamo notato un notevole incremento, proprio come dice lei. Mm. Lei conosce Facebook? Sì, vagamente. Questo social network. Sì. Esiste, per esempio, è notizia proprio di oggi, l'ho trovato sul Quotidiano Nazionale e sono andato a controllare su Facebook ed è vero. Una piccola premessa: a Milano pare che uno dei modi per definire la cocaina sia barella. Esiste il gruppo Barella, che per ora conta solamente, fortunatamente, una novantina di iscritti, gente che si fa fotografare mentre sniffa, gente che si scambia opinioni su come, dove, quando sniffare, perché è il modo migliore, è il modo anche, il contesto sociale migliore. Perché, lei lo ha anche denunciato di recente in un'intervista, perché la droga, la cocaina ha questo aspetto di, se si vuole, anche di fascinazione, ha questo aspetto glamour? Ma l'economia del mondo ovviamente ha promosso certi tipi, proprio come promozione, come si promuove una certa marca, la Fiat o un prodotto di bellezza, l'economia della droga può mobilitare risorse importanti per la distribuzione e anche un po' per incitare la gente al consumo. Ma poi c'è un altro fattore. Ovviamente l'umanità, probabilmente da quando è emersa, da quando noi siamo scesi dalle piante e cominciato a fare i bipedi, ha sempre cercato e avuto bisogno di sostanze che ci permettono di, come può dire, superare la fisicità del nostro corpo. Ovviamente personaggi mistici hanno sempre fatto quello attraverso la preghiera, attraverso la meditazione, attraverso la levitazione delle religioni orientali. Altri invece usano l'alcol, usano la droga, usano sostanze che permettano di superare questa fisicità nostra. In passato si voleva superare questo e si faceva quello con le cosiddetti narcotici, per esempio l'oppio, per esempio l'eroina, che sono sostanze che fondamentalmente addormentano l'individuo in questo sonno sogna l'elefante con cinque zampe blu che vola e perciò ha queste visioni che lo trattengono per ore. Da tempo ormai le nostre società hanno rifiutato questo tipo di droghe, infatti l'eroina è in calo in tutto il mondo proprio per questo. L'umanità cerca, soprattutto i giovani, sostanze psicoattive per essere più attivi. Ma facciamo attenzione, noi occidentali vogliamo essere più attivi nei rave party, nella droga che ci permette di ballare, danzare, fare altre coattività per ore e ore e ore, magari anche giorni. In Oriente è molto diverso, ovviamente sono società molto più dedicate al lavoro e loro vogliono la droga per poter fare i tassisti per 18 ore, non 12, rimanere in una catena di montaggio per 18 ore, non 10, 11, 12, eccetera. Sono motivazioni diverse, ma fondamentalmente c'è questa ricerca di sostanze psicoattive che ci renda degli intoccabili, che ci renda dei super uomini. Ma che effetto le fa, diciamo, che alcune persone, poche, tante, si trovino per fondare anche un gruppo a favore della cocaina? Ma questo mi spaventa che le autorità lo tollino, ma soprattutto mi spaventa come una dimostrazione da parte della società che ci siano degli individui che si vogliono perdere e insieme a se stessi vogliono perdere altri colleghi della società. Ma è un problema di cultura, è un problema di modelli di vita e ritengo che sia fondamentale per la nostra società di reagire introducendo gli elementi, i fattori positivi che impediscano queste cose, non attraverso la legge e magari anche quello, ma soprattutto attraverso una miglior comprensione che questi comportamenti sono dannosi all'individuo che ne partecipa e agli altri che assistono. Allora, 800 24 00 24, ci sono un paio di domande, tra l'altro, perché credo anche il dottor Costa ci dovrà lasciare alle 9:30, poi continueremo con un altro ospite, però un paio di domande interessanti alle quali può rispondere Alberto dalla provincia di Torino. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo chiedere all'esperto per quale motivo si continua a, diciamo, non rendere legale la droga quando c'è l'esempio clamoroso del proibizionismo sull'alcol negli anni 20 negli Stati Uniti, che fino a quando l'alcol è stato assolutamente proibito ha dato una marea di lavoro e di business a tutte le organizzazioni criminali, e quando poi è finito tutti quanti i criminali si sono dovuti reinventare un nuovo tipo di business. Oltretutto tutto questo business attualmente non è tassato. Quindi lei vuole una legalizzazione, insomma, mi sembra di capire. L'annosa è questione che torna. Costa, lei che ne pensa della legalizzazione? Io ricevo questo tipo di domanda molto frequentemente e mi interessa intrattenere appunto il dibattito in materia. Dunque, non dobbiamo, soprattutto nelle nostre società industriali, doverci confrontare con la scelta o proteggere la salute o proteggere, diciamo, la sicurezza pubblica, lottando contro la criminalità organizzata che è coinvolta nella droga. Diciamo, il proibizionismo, cioè le convenzioni delle Nazioni Unite che proibiscono la droga, hanno avuto un successo o no? Guardiamo le statistiche e guardiamo effettivamente all'esempio che il nostro amico torinese ci dà, quello dell'alcol. Anzi, andiamo anche inoltre, guardiamo anche al tabacco. In media, a livello mondiale, circa 33%, un uomo, una persona su tre fuma. Perciò altamente diffuso, un prodotto lecito che ammazza, state attenti, 5 milioni di persone all'anno. Muoiono per cause legate, soprattutto cancro, legate al fumo. L'altro prodotto lecito, non nei paesi arabi, ma nel resto del mondo, l'alcol, usato da circa 25% della popolazione, uno su quattro, 2 milioni e mezzo di persone muoiono per abuso di alcol, 5 milioni di tabacco, 2 milioni e mezzo per alcol. Droga che è controllata non 33%, non 25%, 0,6% della popolazione mondiale usa la droga, praticamente una frazione bassissima, 0,6%. Morti per droga 200.000. Io ne concludo da queste statistiche estremamente potenti come sono e robuste che il controllo funziona. È vero che ci sono state delle conseguenze collaterali, per esempio la criminalità organizzata, ma dobbiamo avere la forza, le nostre democrazie, di combattere contro la criminalità organizzata piuttosto che cedere e portare quelli che sarebbero i morti di droga magari milioni come sono per il tabacco. Quindi lei dice sostanzialmente si muore molto di più, statistiche alla mano, di quelle sostanze che sono lecite, anche se non tutti i paesi, come l'alcol appunto nei paesi musulmani. Io vado in un negozio, compro e abuso. Mi lasci dare un altro ascoltatore, Paolo da Torino sempre, buongiorno. Buongiorno, io vorrei un attimino quello che è la mia testimonianza su come è cambiata la realtà nella mia città, in Torino, nel mio quartiere, che sia un quartiere bene, da quando io avevo 14 anni ad oggi che ne ho 33. Quando avevo 14 anni si usciva la sera, si poteva andare al parco e magari si veniva in contatto con delle persone, tendenzialmente italiani, che magari ti potevano avvicinare a sostanze illecite tipo hashish, ti offrivano, se no cercavano, o comunque si poteva reperire, ma solo droga leggera. Ad oggi invece ci sono dei quartieri, delle strade della mia città che sono scandalose, cioè sì, una palestra incredibile per quanto riguarda lo spazio. Quindi faccia una domanda Paolo, perché il dottor Costa ci deve anche lasciare. È che da quello che vedo io non c'è la volontà di combattere la droga, nel senso che nessuno fa niente, gli spacciatori basta poi arrestarli, non si trovano i depositi di droga. Perfetto, manca la volontà di combattere il business. Secondo lei, lei ovviamente Costa ha una visione mondiale, si cali un attimo sull'Italia, lei vede questa volontà di contrastare il business della droga a livello della politica, immagino. Guardi, il messaggio che noi mandiamo ai governi è che la droga e la tossicodipendenza sono condizioni di salute, sono malattie e devono essere combattute, devono essere contenute come si contengono le altre malattie. Quindi il drogato è un malato. Il drogato è un malato, potrebbe essere un malato per ragioni genetiche, un malato per ragioni di emarginazione e povertà, un malato, però è vulnerabile alle condizioni che poi lo portano allo sfruttamento. Quello che noi stiamo chiedendo è che bisogna superare l'atteggiamento bipartisan, cioè bisogna accettare un atteggiamento bipartisan, superare il fatto che la destra è più contro, la sinistra è più a favore, queste sono assolutamente delle stupidaggini, nei paesi seri queste differenze non esistono. Ovviamente l'Italia, come lei ha rimarcato, l'Italia negli ultimi anni si è mossa in controtendenza, mentre il resto del mondo industriale sta riducendo l'abuso di droghe, in Italia c'è stato un forte aumento. Cocaina, ma non solamente cocaina. Io arrivo alla conclusione che i paesi hanno il tipo di droga e la montata di tossicodipendenza che meritano. Se i governi si impegnano, io vorrei rendere omaggio all'attività per esempio del ministro Giovanardi, che è stato molto impegnato, se i governi si impegnano, se il ministro Giovanardi prosegue, potremmo anche arrivare a superare gli aspetti che il nostro amico di Torino ha indicato. Di nuovo sottolineo, qui si tratta sì di misure di controllo poliziesco, di controllo dell'ordine pubblico, ma soprattutto si tratta di misure di sanità e misure che permettano di superare una condizione che purtroppo infligge così tanti giovani in Italia. Io la ringrazio per essere stato con noi, Antonio Maria Costa. Voglio ricordare, è il vice segretario generale delle Nazioni Unite, e lo voglio ripetere, insomma, perché è uno dei pochi italiani che abbiamo ai vertici mondiali, ai vertici manageriali anche mondiali, e dirige a Vienna l'ufficio per la prevenzione della criminalità e il controllo delle droghe a livello mondiale. Ovviamente ci ha detto tante cose interessanti, grazie per essere stato con noi, dottor Costa. Voglio salutare Riccardo Gatti, che dirige il Dipartimento di Dipendenza dell'ASL di Milano. Buongiorno, ben ritrovato Gatti. Buongiorno. Sentiamo un ascoltatore, Massimo da Pordenone, giusto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, io volevo solo fare un appunto sulle statistiche fornite dall'esperto, sì, che secondo me sono inficiate dal fatto che le sostanze come alcol e fumo sono molto pubblicizzate nella società, come vediamo le sponsorizzazioni per il fumo e quant'altro. Sono legali più che altro. Sì, sono legali, ma la società, il business preme per il consumo, mentre una legalizzazione delle droghe dovrebbe però dissuadere, e quindi le ASL dovrebbero controllare, quindi non certo cartelloni con pubblicità della droga, e quindi quelle statistiche lì è chiaro che spingono al consumo di alcol e fumo. Vabbè, quindi lei non è che lei non è che contesta le statistiche, insomma, sono numeri più che altro, ma dice sono inficiate da questa cosa. Allora, io le voglio ricordare, perché così magari ripartiamo così dal dottor Gatti. Ci ha detto Costa sostanzialmente che di tabacco, per cause legate al tabacco, muoiono circa 5 milioni di persone l'anno. Per quel che riguarda invece l'alcol, quindi due sostanze lecite, a parte l'alcol nei paesi musulmani, l'alcol lo utilizza, ne fa uso il 25% della popolazione, e sono 2,5 milioni le persone che muoiono per questo. La droga invece, chi fa uso di droga nel mondo è lo 0,6% della popolazione, sono circa 25 milioni su quasi 7 miliardi di abitanti, se facciamo quasi 7 miliardi come stima. I morti sono circa 200.000. Gatti, il nostro ascoltatore dice, ma certo, ma alcol e tabacco sono anche spinti da una promozione. Lei invece punta molto sul tasto che anche per la droga funziona questo mercato vero e proprio, quello dello spingere all'utilizzo della droga, è così? Beh, assolutamente sì, un mercato che fa 352 miliardi di dollari, io credo che non è che funziona da solo, ma funziona come tutti gli altri mercati, per cui è evidente che la pubblicità dell'alcol è può essere più palese della pubblicità della cocaina, ma non è detto che quanto è più palese sia per forza più efficace, nel senso che esistono altri modi di promuovere i prodotti facendo notizie attorno ai prodotti stessi, trovando dei testimonial magari anche involontari, creando delle situazioni e dei format di consumo in cui si vive in un determinato modo, ma l'uso della sostanza è compresa in quel modo di vivere, che possono spingere il prodotto illecito esattamente come il prodotto lecito. Che effetto, non so se conosce anche lei Facebook, magari c'è, certo, anche, che effetto le fa, anche lei, non so, prima l'ho citata, no? Questa community non, abbastanza ridotta, non mi fa nessun effetto, no. Nel senso che io navigo in reti telematiche da prima che internet fosse aperta al pubblico. Esistevano VBS, che era un insieme di computer gestiti da volontari con cui si poteva avere un servizio di posta elettronica e comunque un accesso a informazioni gestito in modo assolutamente volontario. Esistevano le grosse reti, ne cito solo una, CompuServe degli Stati Uniti, di cui si poteva accedere anche dall'Italia per avere informazioni, erano come se fossero delle piccole internet su base volontaria o su base diciamo così commerciale, e anche allora esistevano luoghi, siti dove gente che amava le droghe o voleva informarsi o voleva scambiare notizie sulle droghe, a volte in maniera positiva, si incontrava e scambiava informazioni. Quindi il fatto che su Facebook si trovino 90 persone a parlare di questo, esistono gruppi di discussione forse molto più frequentati di Facebook e che esistono da anni, dove tutto questo è normale da sempre. Senta, qual è l'emergenza attuale in Italia? Per esempio, parliamo a dei genitori magari che ci stanno ascoltando, sì. Sempre che lei, come spesso dice, sempre che non siano i genitori più che i figli a utilizzare la droga, perché avviene ovviamente anche questo. Ma qual è l'emergenza attuale dalla quale, insomma, stare molto attenti, e qual è l'emergenza che si profila invece domani? Ma guardi, ci stiamo studiando, perché tra poco usciremo con la nostra previsione annuale. Io gestisco per la Regione Lombardia un laboratorio che si chiama Prevolab, che prevede l'evoluzione delle droghe in Italia, e quello che posso dire come situazione anticipata è che la situazione di recessione mondiale a livello economico sta provocando un cambiamento epocale nella situazione delle droghe, cioè essenzialmente io credo che siamo ad un punto di svolta, in quanto fino adesso tutti quanti erano portati a pensare, e le previsioni lo confermavano, che la cocaina fosse in continua crescita, che ci fosse in continua crescita la presenza di droghe sintetiche, che tutto quanto funzionasse così, con un'eroina diciamo lasciata ai margini o comunque su numeri molto piccoli. Diciamo che le cose non cambiano da un momento all'altro, ma secondo me il mercato della droga si è preparato in anticipo al crollo dei mercati internazionali, perché vende prodotti, le droghe, che in questi anni sono stati prodotti intesi come beni di consumo, che quindi così come altri venivano consumati anche a scopo edonistico e non per forza da tossicodipendenti. Si sta preparando in che modo? Diciamo che la sensazione è che la situazione in questo momento appaia come ferma, lo diceva anche il dottor Costa delle Nazioni Unite, ma in realtà non è affatto ferma. Cioè, le faccio un esempio: a Milano le persone tra 15 e 24 anni hanno avuto contatti, quindi hanno consumato l'eroina, quanto l'hanno consumata, parlo di una volta in vita, le persone tra i 45 e i 54 anni, ma le persone tra i 45 e i 54 anni, posto che hanno avuto molti più anni per vivere, erano quelle che avevano attraversato il periodo di emergenza droga degli anni 70 e degli anni 80, quando l'eroina pareva un nemico da battere, e di conseguenza questo significa che i più giovani sono vicini a quella situazione molto più di quanto si pensi, anzi l'hanno già raggiunta. Eppure noi abbiamo una sensazione completamente diversa rispetto ai consumi. È chiaro che si tratta di numeri più piccoli, ma sono numeri grandi almeno quanto un tempo c'era l'emergenza droga. E diciamo che su questa cosa ha un motivo, adesso spiego anche che cosa c'entra con la recessione economica, facendo notare che è vero che l'ultimo anno, per tutta una serie di motivi, tra cui anche di coltivazione agricola, quindi di siccità, la produzione di eroina afghana è scesa di un po', ma nell'anno precedente era aumentata del 100%. È vero, nel 2007 era aumentata tantissimo. Sono sostanze che si immagazzinano. Infatti questo è un punto interessante, con Costa non l'abbiamo toccato, ma lui stesso l'ha detto, cioè la produzione è scesa, ma temia c'è una grande incognita, cioè quanta di questa merce è stata stoccata, pronta ad essere rilasciata sul mercato per un controllo proprio del prezzo, offerta e domanda, insomma. Anche questo è molto interessante. Tra poco magari parleremo anche della questione droghe sintetiche, i rave party, come li ha citati Costa. Primo un ascoltatore, Roberto da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Dunque, no, io volevo portare la mia testimonianza di pluridrogato da una trentina d'anni, occhio e croce. Dunque, io mi sono fatto la prima canna più o meno, avevo 20, e la fa di militare, Dio mi militare fa bene, e devo dire, io ho provato di tutto, come dicevo prima la ragazza, dall'A di anfetamina alla Z di Zitoxid, che erano delle pasticche che si prendevano in quantità e davano un bello sballo. Devo dire, io in quasi 30 anni di onorata carriera non ho mai avuto nessun problema con la legge, sì, perché non ho mai fatto nulla di delinquenziale, diciamo, non ho mai fatto del male a nessuno, e la cosa che a me fa ridere, quindi quello che voglio dire è questo, cioè se a un certo punto io posso appunto prendermi delle pasticche perché sto male, vado dai dottori e mi faccio dare gli psicofarmaci, se posso alcolizzarmi e fare queste cose, cioè se io potessi a casa coltivarmi le mie 2-3 piantine di marijuana per farmi tranquillo. Ho capito dove vuole andare. Spero che lei non abbia la patente. Ma io io guido da sempre. Bene, complimenti. Non ho avuto incidenti e soprattutto complimenti. Speriamo che continui così, insomma, perché fa finire. Evito di guidare quando sono di fuori. Ecco, bene. Però, si vede chiaro, cioè, però io lavoro in un ambiente, do da mangiare alla gente. e vedo la gente che si fa i quartini di vino eccetera e poi monta a macchina. Vabbè, è sbagliato anche quello, non è che se uno sbaglia lei dice io la patente tranquillamente. Allora, Riccardo Gatti vuole rispondere. Io ho risposto così un po' distinto, mi sono anche un po' innervosito, devo dire. Vuole rispondere lei in maniera più pacata, nostro Roberto? Diciamo che ormai in ogni trasmissione in cui si parla di droga arriva il testimonio. Certo. Normalmente il discorso è questo. Io mi drogo e vivo bene. Tutta la vita che mi drogo, sto benone. In fondo la gente quando non sta bene va dal medico, si fa prescrivere un farmaco, quindi perché io non posso fare la stessa cosa con le droghe e perché non posso coltivarmene addirittura in casa, in modo che così la situazione è anche più pulita. E questo è il risultato di quello che dicevo prima, cioè esiste un marketing delle droghe che ha convinto poco per volta le persone del fatto che l'additivo quotidiano in stimolazione, in depressione, in rilassamento eccetera è una cosa buona e giusta e che anzi uno eventualmente se la deve anche procurare da solo. E quasi come se fosse un farmaco, ma il farmaco dovrebbe essere prescritto per delle malattie, qui stiamo parlando di persone sane. Ed è per questo che dal nostro punto di vista, anche di persone che fanno i medici, non si riesce a capire perché uno deve prendersi tutti gli effetti collaterali indesiderati e gravissimi e i rischi connessi all'uso di sostanze, quando è una persona che sta assolutamente bene, potrebbe fare una vita tranquilla, normale e di soddisfazione senza usarle. Ed è proprio qui che interviene il mercato, no? Per far credere che a un certo punto tu hai bisogno di questo. La questione è che questo mercato si è basato in questi anni su una clientela anche molto occasionale. In questo momento ha molto paura perché con la recessione economica che c'è la gente ha meno soldi in tasca e quindi il problema è come si fa a non perdere i guadagni che ci sono e l'operazione potrebbe essere quella di trasformare i consumatori occasionali in tossicodipendenti attraverso sostanze come l'eroina che dando in fretta la necessità di aumentare la dose o la frequenza della dose per avere lo stesso effetto possono portare rapidamente a una tossicodipendenza. Il tossicodipendente rispetto a un consumatore occasionale ha una differenza essenziale, che tutti i giorni ha bisogno della stessa dose e quindi è l'investimento sicuro che ti garantisce il reddito negli anni, una specie di CCT, una specie di bot delle organizzazioni che vendono la droga. Questa è l'operazione che in questo momento è in atto. Allora, un altro ascoltatore, Gian Andrea da Palermo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Guardi, io intanto una domanda che avrei voluto porre al dottor Costa, magari mi potrà rispondere sì, il vostro interlocutore. Gatti, certo. Su 10 carichi di droga, quanti sono quelli intercettati? Questa è la prima domanda. Poi volevo fare una considerazione. Noi, ai trafficanti di droga, è come se fornissimo noi stessi, cioè i governi che combattono la droga, è come se loro fornissero ai trafficanti un'arma atomica. E poi, in realtà, l'unica cosa che si riesce a ottenere è quella di sequestrargli dei fucili. Perché il proibizionismo fa questo, fa delle droghe un'arma atomica nelle mani delle mafie di tutto il mondo. Ah, ecco, cioè lui voleva arrivare diciamo al punto finale, mi sembra di poter dire la cosa più interessante. Anche lei è un antiproibizionista, insomma, cioè il proibizionismo crea il fenomeno del traffico, quindi del traffico clandestino, delle mafie, delle narcomafie. Gatti, anche questa, non so se si sa una previsione, insomma, Gatti non è un uomo delle forze dell'ordine, no. Per capire quanta droga sfugge ai controlli. Purtroppo temo tanta su 10. Sì, il tema del proibizionismo insomma torna. È una statistica nota, nel senso che più o meno la repressione del traffico, per quanto dicono le stesse forze dell'ordine, più o meno si attesta sul 10-15% di azioni, quindi su 10 carichi, come diceva la persona che parlava prima, ne verranno sequestrati uno e mezzo. La questione poi è più complicata, nel senso che facendo io il medico non sono un politico, quindi la scelta politica di un paese di essere proibizionista o antiproibizionista è una cosa molto complicata che francamente mi vede col pensiero di qualunque altro cittadino, quindi non con un'esperienza oggettiva da poter rispondere che cosa è giusto e che cosa non è giusto. Io dal mio punto di vista la vedo in un altro modo, cioè proibizionismo o non proibizionismo, io non capisco perché noi dobbiamo lavorare continuamente per cercare di evitare che la gente si faccia del male, cioè che la droga poi sia legalizzata o che la droga sia non legalizzata dal punto di vista di chi la consuma, il rischio diciamo è simile, Allora il problema è poi come si potrebbe instaurare un mercato della droga alternativo e legale che porti via i clienti a quello che già c'è. Dovrebbe essere un mercato che fa delle promozioni, che fornisce sostanze di qualità migliore, che ha una distribuzione altrettanto diffusa, e il rischio è che per almeno per un certo periodo, dal mio punto di vista, questi due mercati in competizione potrebbero attrarre un maggior numero di clienti, cioè man mano che si costruiscono nuovi supermercati le persone che vanno a comprare sono di più, e poi quindi dal punto di vista mio forse la questione è cercare di far capire alle persone il pericolo che corrono assumendo queste sostanze. Per esempio, la cocaina è molto diffusa, una persona dopo un po' di volte che l'assume ha il rischio di infarto 4 volte superiore a un'altra persona. Allora è chiaro che poi se questa cocaina gliela diamo buona e legalizzata e venduta in farmacia o viene comprata all'angolo, il rischio c'è lo stesso. Il problema dal mio punto di vista è ma è chiaro, poi il nostro ascoltatore di Firenze magari non sarà d'accordo. Senta Gatti, ogni tanto viene fuori la questione per esempio sui rave party, ma ha davvero senso proibirli, come dice qualcuno, proibirli non tanto perché siano fatti in maniera illegale improvvisata, proibirli per il consumo, insomma, legato a quella tipologia di fenomeno? Ma guardi, anche lì dipende dagli approcci. Senz'altro quello che sono oggi molti rave party sono dei mercati della droga a cielo aperto, sono come i mercatini rionali della frutta e verdura che girano di luogo in luogo, e lì ci si va per consumare droghe con dei presupposti magari anche diversi, che ci va in maniera più intimistica e quindi prende droghe di un certo tipo, chi ci va proprio per sballare, per andare fuori di testa, ne prende altre, e poi bisogna decidere che fare. Cioè io non so se la proibizione, io credo che la questione sia l'atteggiamento generale, cioè da una parte forse non si è capito che sa cosa sta succedendo oggi rispetto ai consumi di sostanze, cioè le persone della mia età o più, io ho 55 anni, sono convinte che ci siano i buoni e i cattivi e che le sostanze sono date e prese dai cattivi, mentre diciamo che nelle generazioni più giovani, grazie a questa azione di marketing che è stata fatta nel tempo, l'utilizzo di sostanze additive in situazioni diverse è considerato quasi normale. Ma se ci pensiamo, tutti quanti abbiamo introiettato un certo tipo di normalità. C'è un esercizio che io faccio spesso quando vado a conferenze o incontro gruppi e dico: è una persona che ha una giacca blu e una camicia bianca, ha un grosso SUV e frequenta locali alla moda, poi chiedo che droga usa e le persone che mi ascoltano lo sanno già. Dico: è un operatore sociale, gira in bicicletta, ha una compagna precaria, tutte e due sono precari e consumano prodotti del mercato eco e solidale, poi chiedo che droga usano e tutti lo sanno già. Quando poi chiedo, ma voi come lo sapete? Non lo sanno, perché hanno già introiettato un certo tipo di stereotipo, che è il format di consumo, che per le giovani generazioni è completamente introiettato, cioè è normale così. Per quelli un po' più avanti lo sanno già, ma non se ne sono ancora rese conto. Quindi io su questo Gatti mi devo fermare, perché siamo arrivati anche oggi al termine, e ringrazio lei, come ringrazio ovviamente Antonio Maria Costa, che ci ha dato uno spaccato più mondiale per poi calare invece sul tema italiano, il problema della droga. Vi ricordo che potete ascoltare la puntata sul sito radio24.it e scriverci alla mail vivavoce@radio24.it. ringraziamenti ad Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione, Giorgio Matte in regia, e ci ritroviamo domattina. Viva Voce.